You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare non a vanvera contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che parla di integrazione, di pregiudizi razziali, di quello che sta accadendo alla nostra Italia che cambia. La splendida voce del doppiatore di Spencer Tracy, quest'attore americano del film da cui prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena, ci introduce anche questa sera per parlare dei pregiudizi che nella vita, come a tavola, a volte superiamo. Parliamo quindi di cucina e ricetta per raccontare i nuovi italiani. Indovinate chi è venuto stasera a cena Radio 24? Per introdurre la nostra ospite vi faccio ascoltare questo breve audio. Vorrei che la mia storia contribuisse a popolare Roma, la mia città, coi colori e profumi dell'Eritrea. E questa era la voce della scrittrice, mediatrice italo-eritrea Ribka Sibatu, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera. Buonasera, ho anche la cittadinanza francese. Ecco, italiana, francese, eritrea, insomma, infatti, cittadina infatti. Del mondo, cittadina del mondo. Questo era un audio tratto da un documentario Aulò, che a sua volta è stato tratto da un libro che lei ha scritto, di cui parleremo tra poco. Per presentarla al nostro pubblico, io dirò subito che è nata in Eritrea, è appunto residente a Roma, ha scontato del carcere nel suo paese, è stata costretta all'esilio, ha raggiunto l'Etiopia dove ha studiato, poi si è trasferita appunto in Francia, successivamente in Italia, si è laureata all'Università La Sapienza e poi ha ultimato anche un dottorato di ricerca presso l'Università di Roma La Sapienza. È così? È così, sì, grazie. Come è arrivata in Italia? Ultimamente pensano che quando uno viene da fuori viene solo coi barconi, purtroppo. Invece io sono venuta col palatino, era settembre del 1987, la prima volta che ho messo piede nella Italia, che dal racconto di mia nonna era la terra promessa. E certo, poi la storia dell'Italia e dell'Eritrea, poi ne parleremo, sono intrecciate più volte in maniere più o meno felici, più o meno dolorose. Innanzitutto, di solito noi per partire parliamo di cucina, perché lo spunto da cui traiamo è quello che ci ha introdotto, quella della cena, no? Cosa ci cucina questa sera? Stasera vorrei portarvi in Eritrea, immaginando che è nato un bambino. E al terzo giorno della nascita, le donne che dopo aver fatto dei sonori trilli alla nascita, che così, dopo però, al terzo giorno, tornano le donne, si prepara una polenta, di solito si preferisce l'orzo, la polenta d'orzo, con condito di burro profumato di erbe nostre, in più il peperoncino con le 7 spezie eritree, ecco. E tutti si mettono intorno a questa polenta e mangiano nella parte loro insieme. È uno dei piatti che io adoro. Tra l'altro lei ha scritto delle ricette nel suo libro, Aulò. Sì, è incredibile. Tra l'altro festeggia i suoi 20 anni in questo triste mese per gli eritrei. È stato scritto 20 anni fa, è un libro autobiografico dove parlo, come accennato prima, della mia infanzia, ma anche del mio carcere, come sono uscita e perché sono stata diventata, anche perché ho voluto essere scrittrice. Sono anche le ricette di Zigny Schuro, Alice Atra. Come mai ha inserito anche le ricette nel libro? Tra le tante cose mi piace anche la cucina, sono appassionata, quindi insomma. Quindi la cucina fa parte della sua vita in maniera integrale e attraverso la cucina si parla. Sempre porto la mia cucina, le mie ricette, le mie spezie, perché credo che l'olfatto, tra l'altro l'olfatto è la memoria più che dura di più di tutte le memorie che abbiamo in mente, no? E allora attraverso quello si comunica meglio su una cultura, anche il modo di mangiare, il modo di fare. Con la cucina e anche con la musica. Sentiamo una musica che lei ci ha indicato. Si chiama Aga, vuol dire sta sgridando a noi eritrei che siamo silenziosi dopo tutti questi drammi nel Sinai, 5.000 cadaveri. E questo cantante dice: nella nostra dimora è entrato un boa da anni abituato a divorare bambini adulti con una faccia da bravo uomo, si rivolge al dittatore nostro, noi in Eritrea, a cambiare colore, mette in gioco le vite, bisogna dire basta prima che arrivi il peggio. بلقاتي بجزائي دم زقبلي ايش من عبي مو حد زلمدي فيك وات القمر حبرنا غيري عليم زتلني. Questa è la musica che lei ci ha raccontato il testo, una musica che parla del suo paese d'origine. Ieri c'è stata anche una manifestazione importante, no? Molto importante, perché in Eritrea dopo Lampedusa abbiamo detto basta, veramente un coordinamento nato a settembre, 21 settembre a Bologna, che è fatto di associazioni, ONG, non so se conosce la dottoressa Gandhi che va in Sinai a salvare le vittime rapite mentre scappavano dal loro paese e vengono vendute e lì devono, per essere riscattati, devono pagare fino a 60.000, 50.000 dollari, se no i loro organi diventano ricambio. E come dicevo prima, sono stati trovati recenti cadaveri, anche ricambio di organi, che sono diventati 5.000 freschi cadaveri. E lei va al Sinai, la dottoressa Al-Kanesh, e la sua ONG la manda lì e ha salvato minimo 500, non so, tra 300 e 500 eritrei. Perché cos'era questa manifestazione? Era per dire all'Italia, anche in base al rapporto storico che abbiamo avuto, di creare un corridoio umanitario per le vittime che scappano dalla dittatura eritrea, di creare un corridoio umanitario, anche in nome della nostra storia in comune, 60 anni insieme, in 150 anni di storia, sono tanti. In più chiediamo al governo italiano di chiarirci il rapporto con la dittatura eritrea, perché quello che è successo lunedì scorso, se si ricorda, organizzato dal ministero Alfano a Agrigento, ha invitato. Certo, parliamo della manifestazione, della celebrazione postuma per i morti di Lampedusa, ne parliamo tra poco, ci dobbiamo fermare un attimo e torniamo a parlare proprio di Lampedusa, di quello che è accaduto, dei sopravvissuti eritrei, ma anche delle vittime di questo naufragio, con lei subito dopo la pausa. Grazie. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. got to give a little, take a little, and let your poor heart. Torniamo con voi a Indovina chi viene a cena. Da questa nuova edizione, da questa nuova stagione del programma, proponiamo in apertura di questa seconda parte diverse versioni della canzone del film, la state ascoltando, che negli anni abbiamo scoperto è stata reinterpretata da diversi autori con sonorità diverse. Abbiamo ospite questa sera la scrittrice italo-eritrea Ribka Sabatu, che è con noi per parlare di molte cose, tra cui anche il terribile naufragio del 3 ottobre a Lampedusa, dove a bordo, lo ricordiamo, c'erano in prevalenza eritrei. Ci sono state quasi 400 vittime, 150 i sopravvissuti. Ribka, brevemente, perché i suoi connazionali scappano dall'Eritrea? Le lascio immaginare gli ascoltatori perché scappano, pur sapendo che in Eritrea chi viene trovato mentre scappa, chi lo vede o se lo vede un militare, eccetera, ha il dovere di fucilarlo. Quindi chi scappa sa già che c'è questo rischio nell'uscire dall'Eritrea. In più, appena uscito, spesso vengono rapiti dai beduini e venduti, come le dicevo prima, nel Sinai, quindi anche questo rischio. E se poi escono da lì, una volta, come è successo a due passi da Lampedusa, a 3 chilometri più o meno, 2 chilometri di Lampedusa, due navi sono passate, l'ultima tragedia, vicino. Una ha girato intorno, parlò le parole del testimone dei sopravvissuti, l'altra si è avvicinata e poi se n'è andata, e non avendo trovato, dopo 2 ore di attesa lì per soccorrere, la nave ha cominciato a filtrare acqua e il motore per cacciare via l'acqua non funzionava più. Preoccupati per attirare l'attenzione, hanno acceso un lenzuolo e questo poi ha tirato la benzina della nave e sappiamo cosa, come è finita. Allora, questo si poteva evitare se non ci fosse stata la legge Bossi-Fini, perché i pescatori, i grandi, con quell'occasione voglio ringraziare i lampedusani e il sindaco di Lampedusa, che vorrebbero fare ancora di più, la legge li proibisce, quindi questi morti si potevano evitare. Si potevano evitare, e tra l'altro lo ricordiamo, proprio 2 giorni fa il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui flussi migratori nel Mediterraneo dopo la tragedia di Lampedusa, in cui si chiede tra l'altro una modifica della legge Bossi-Fini. Quindi una voce importante europea si è levata contro quello che è accaduto. Ma lei nella prima parte della nostra trasmissione faceva riferimento anche alla cerimonia lunedì scorso ad Agrigento, una cerimonia per le vittime di Lampedusa postuma, a salme ormai tumulate, senza che ci fossero i sopravvissuti. Questa cerimonia è stata definita una farsa da Mosè Zerai, sacerdote eritreo che da anni si occupa dei migranti, dei dissidenti. Tra l'altro era presente anche l'ambasciatore dell'Eritrea e giustamente molte voci si sono levate contro questa presenza, perché chiaramente l'ambasciatore è un portavoce del governo della dittatura eritrea. Esattamente, perché da anni l'Italia, il governo italiano ha avuto rapporti con questa dittatura, quindi questo è un esempio eclatante, ma tristemente eclatante, che offende alla storia in comune che abbiamo, all'amore che hanno gli eritrei per gli italiani e viceversa gli italiani, che con il mal d'Africa, che lo spiegano, hanno per l'Eritrea. Allora, veramente è stata. I morti sono morti 2 volte, noi lo consideriamo come se fossero 2 volte morti. Senta, da 506 persone che erano nella nave, 366 solo Eritrea sta esterminata da questo evento. Stiamo morendo ogni giorno, è il nostro olocausto, stiamo gridando al mondo aiuto prima che sia troppo tardi, perché la cultura eritrea è una cultura ospitale, generosa, e non meritavamo questo questa tragedia e chiediamo anche in nome del nostro rapporto storico agli italiani, al governo italiano, di darci una mano una volta. Ci ha traditi tante volte il governo italiano nella nostra storia. Che impressione le ha fatto la presenza dell'ambasciatore eritreo ai funerali? Gravissima, perché se a causa di quella dittatura scappano, ma si rende conto, vittime e carnefici insieme a una... ma è una farsa, proprio una farsa. Invece l'assenza dei sopravvissuti alla celebrazione... Neanche i sopravvissuti avevano diritto. Guardi, io credo, spero che ministro Alfano, tutti siamo umani, sbagliamo nelle cose che facciamo, io spero che ministro chieda scusa al popolo eritreo, ma soprattutto ai morti. Qualcuno ha anche criticato la presenza del ministro Chieng, ha detto non si doveva, non doveva consentire, non doveva essere presente. La Chieng? Sì. No, la Chieng, io non sono contraria alla sua presenza, ma che lei abbia ricevuto senza appurare chi andava, la delegazione che viene dalla dittatura, di questo sono contraria. Ma che è una donna in più nera che sia il ministro e che vada ai funerali, io sono molto contenta. Non è quello il punto. Il punto è che deve sapere con chi ha a che fare questi dittatori. Cioè proprio da lei. Aspettiamo più sensibilità in materia, perché sono quelle morti, erano più donne e bambini, e quindi da donna e da africana chiediamo più sensibilità al problema. Problema senz'altro dell'Italia, ma è anche un problema europeo, no? Bisogna fare di più per prevenire stragi come quella di Lampedusa, ha detto il presidente della Commissione europea Barroso. Sentiamo allora la vicepresidente dell'Europarlamento Roberta Angelilli, che ha parlato proprio al microfono della nostra collega Anna Migliorati proprio pochi giorni fa. Abbiamo raggiunto una posizione comune e condivisa su alcune priorità. La prima, direi la più importante, è quella di richiamare il Consiglio europeo ad una strategia su un'equa condivisione delle responsabilità. Non possono essere soltanto alcuni paesi membri che affacciano sul bacino del Mediterraneo a avere sostanzialmente poi l'onere della gestione delle emergenze, che quindi ci vuole un sistema condiviso. Noi vorremmo che fosse obbligatorio, ma comunque condiviso delle responsabilità. Il secondo punto importante è il potenziamento di Frontex, quindi dare a Frontex più strumenti sia finanziari ma anche operativi per poter coordinare meglio il controllo delle frontiere, i pattugliamenti coordinati. Poi abbiamo risottolineato l'importanza di stabilire degli accordi con i paesi d'origine, anche per prevenire i flussi irregolari, in particolare per combattere diciamo il fenomeno del traffico degli esseri umani. Che impressione le fa e cosa pensa del fatto che si dice in Italia è un problema europeo, Ribka Sabatu? Ha ascoltato bene? Accordi coi paesi d'origine che sono causa dell'immigrazione, ma ne pare che si può fare accordi con la dittatura imperante dove non c'è diritto di parola, giornalisti sono arrestati, ministri che hanno chiesto l'applicazione della Costituzione sono in galera da 2001, 18 settembre, con questi si può fare accordi secondo lei? No, l'Europa deve cambiare strategia, deve sviluppare la cooperazione una volta per tutte. L'Africa, oltre a sfruttarla, bisogna investire nella pace, nell'educazione delle donne e uomini, soprattutto nelle donne. Sentiamo brevemente un audio che viene dal passato, dagli anni 30 addirittura, per ricordare anche che la storia e i contatti con l'Eritrea e la nostra presenza in Eritrea non è sicuramente una cosa di ieri, ma insomma ha radici molto profonde nella nostra storia. Sentiamo. Fronte eritreo, nella zona dove si è iniziata la grande battaglia dell'Endertan, che ha portato le nostre truppe vittoriose alla conquista del massiccio dell'Ambaradam, che con la sua caratteristica sagoma forma un baluardo naturale. Allora, questo è un audio degli anni 30 dell'Istituto Luce, periodo di Mussolini, del fascismo, durante il quale noi siamo stati in Eritrea e in Etiopia. Qui si ricorda la terribile battaglia di Ambaradan, da cui questo termine che noi usiamo così con leggerezza invece si riferisce a una battaglia durante la quale gli italiani gasarono in quel caso la popolazione etiope. Però anche in Eritrea abbiamo, no, Ribka, un passato che nel vostro popolo si è sentito fortemente, non possiamo certamente non ricordarlo. Lei, i nonni, i parenti ne parlavano di questa presenza italiana? Nel mio libro lo lascio, ma il colonialismo italiano, guardi, c'è un detto eritreo che dice: gli italiani ci dicevano mangiate e non parlate, gli inglesi parlate e non mangiate, e gli etiopi non mangiate e non parlate, e questo ultimo aggiungo io, non parlate, non mangiate, non esistete perché ci sta sterminando. Allora, almeno avevano costruito case, strade. Il male peggiore del colonialismo italiano, più del gas che hanno usato, questo non so perché nei libri di storia appare più come danno il gas, è lasciarci... Ferdinando Martini, il primo governatore civile dell'Eritrea, che ha vissuto dal 1897 al 1907, nel suo diario ha scritto: ai negri nessuna scuola. Di proposito, quindi, e dopo lui che è arrivato ci ha permessi solo fino alla quarta elementare. Nel 41 eravamo indipendenti, ma non c'era gente istruita, e quindi non abbiamo potuto, dopo 41, dovevamo... Djibouti, un paese tre volte più piccolo dell'Eritrea indipendente, invece l'Eritrea, con tutta la ricchezza che hanno lasciato gli italiani, non ha avuto la sua indipendenza. Il male peggiore che ci ha messo il colonialismo, uno, è proibirci l'educazione. Secondo, nel 41 si è messo con l'Etiopia e ci hanno federato con le Nazioni Unite, e l'Italia non ha protetto l'Eritrea. Ma terzo, l'ultimo, questo di adesso, si mette d'accordo con il dittatore. L'Italia ci ha tradito più volte, il governo, non gli italiani. Attenzione, perché gli italiani amano l'Eritrea, gli eritrei, e così gli eritrei agli italiani. Il governo italiano ha avuto tante colpe. Adesso è arrivato il momento di riscatto. Grazie, grazie alla nostra ospite di oggi, la scrittrice italo-eritrea Ribka Sabatu. Grazie per averci raccontato un pezzo di Italia e un pezzo di Eritrea. Grazie per essere stata con noi, buona serata. Grazie a voi, grazie a voi. Il cibo più tradizionale della cucina eritrea è lo zebi, uno stufato di carni varie servito con injera, un pane piatto di tef, grano o sorgo, e lo hilbet, un piatto di legumi, principalmente lenticchie e fave. Le abitudini alimentari eritree variano a livello regionale. Negli altopiani l'injera è la dieta di base e viene mangiato ogni giorno dai tigrini. Quando si mangia, in genere i commensali condividono il cibo da un grande vassoio posto al centro di un tavolo da pranzo basso. Vi sono ammonticchiati numerosi dischi di injera conditi con vari stufati piccanti. I commensali prendono con una mano un pezzo di injera di fronte a loro, strappandolo da una forma e intingendolo nello stufato. Gli stufati che accompagnano l'injera di solito sono a base di manzo, pollo, montone o verdure. Il berberè, una miscela di spezie che si compone di una varietà di erbe comuni ed insolite, accompagna quasi tutti i piatti. Fra gli stufati si ricorda lo zigni, con carne di manzo, doro zebi con carne di pollo, aliscia e shiro, una purea di legumi vari. Grazie al suo passato di colonia italiana, la cucina eritrea dispone anche di interpretazioni uniche di classici piatti della cucina italiana. La puntata termina qui, io ringrazio in regia Peter Bescapè, mi trovate anche su Twitter @valfurla, trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buona serata a tutte, ricordate che a tavola, come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.